9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Allo zoo comunale, allo zoo comunale. Primo Fini che dice: ma come, se appuro che veramente mio genero è proprietà della casa Monte Carlo, mi dimetto. È un anno e mezzo che la racconta. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera, vengo anch'io. Ma chi è che si è riscoperto improvvisamente a primavera? Giulio Tremonti ha proposto adesso che non ci possano essere più le ganasce fiscali, capite, per Equitalia. Ma dov'era per 18 anni Giulio Tremonti quando ci spiegava il contrario? Dov'era? È un alias, è un omonimo. Vergognati! Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no. Allora, tre idee di un mondo migliore. Primo, il titolo del Fatto Quotidiano, che c'entrano oggi. Se Renzi vince, D'Alema fa un partito. Un altro, sì sì, un partito di sinistra, riformista, aperto a Vendola. Perdonate, ma è una risata. Seconda pillola, l'ex sindaco di Siena, comunista, Barzanti, dice del Monte dei Paschi di Siena, che è sopravvissuto a tutto 500 anni, tranne che al partito comunista, visto che è junk, spazzatura da ieri, dice sì, in effetti abbiamo sbagliato, abbiamo tenuto la fondazione troppo vicina al controllo. Troppo tardi, i partiti distruggono il vostro risparmio. Terza pillola, ma sì, diciamola, tanto casino per questo disegno di legge anticorruzione e scoprire poi dopo che è un bel passo indietro su come diavolo si accertano i reati? Ma che vergogna! Poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Va bene, abbassiamo il tono di voce. Io mi diverto con queste pillole iniziali. Molti ascoltatori sono un po' perplessi perché dicono: ma che cos'è questo stile, questo modo sempre più estremo? Non so se sono io sempre più estremo. Il problema è che mi pare che il susseguirsi quotidiano di notizie sia sempre più estremo. Ieri vi ho spiegato che cosa c'era nel disegno di legge anticorruzione su cui il governo, con il petto pieno e gonfio, diceva: eccoci, porteremo al vertice europeo la prova provata di quello che noi facciamo. Poi uno va a vedere cosa c'è scritto e, ripeto, oltre a cose che a me fanno sganasciare dalle risate, il responsabile anticorruzione delle imprese, adesso non bastava l'autocertificazione di mafia, facciamo anche la lista delle imprese non corrotte, ed è un'altra cosa che mi fa morire dalle risate, la quantità di adempimenti. Nel merito si scopre naturalmente che adesso, rispetto alle modifiche sul vecchio reato di concussione, in realtà è un alleviamento delle pene e una complicazione per accertarli questi tipi di reati, quindi tanta fuffa buttata negli occhi, e poi nella sostanza questo è quello che avviene. E detto questo, ripeto, vedere ogni giorno come reagiscono gli esponenti dei partiti, non so, la Santanchè che oramai fa il leader, la rottamatrice da una parte, dall'altra D'Alema che fa il custode dell'identità, dall'altra Tremonti, ve l'ho detto, a me suscita un terrore vero. Nel frattempo in Europa, guardate, Il vertice di ieri dimostra che non siamo affatto nel mare della tranquillità. Il contrasto tra tedeschi e tutti gli altri, o tedeschi che dicono mettiamo il supercommissario al rigore dei bilanci e però dicono no all'unione bancaria perché non vogliono che gli altri mettano il naso nelle loro banche pubbliche, le Landesbank, che hanno attivi di qualità molto cattiva, testimonia come fino al voto tedesco del prossimo autunno questi problemi difficilmente si risolveranno. Nel frattempo la Spagna, dopo il voto catalano tra due settimane, andrà incontro alla richiesta formale degli aiuti che diventeranno a quel punto i termini di riferimento per cui i mercati inizieranno a chiedere che sia l'Italia a prendere quegli aiuti prima del voto europeo. E se eleggiamo un Parlamento di soli matti, perdonatemi questa espressione per capirci in una parola, con pieno rispetto verso il voto di voi tutti, arriva pure il Fondo Monetario. Ecco, questo è il quadro nel quale ci avviamo barcollanti come ubriachi, dando la colpa agli altri, nei partiti picchiandosi gli uni con gli altri, nessuno però dicendo scusa per quello che è avvenuto tra prime, seconde, terze, quarte e quinte fila. E in tutto questo noi continuiamo a raccontare poi la storia dell'Italia vera, cioè dell'Italia che in questo casino tenta di continuare a fare impresa, di reggersi in piedi, malgrado le tasse, l'energia, la pubblica amministrazione, il delirio di provvedimenti che di semplificatore hanno solo il nome, eccetera, eccetera. E però noi tentiamo di spiegare come equalmente, casi alla mano, ieri abbiamo raccontato il caso singolarissimo dell'amico che a Torino voleva aprire un bar e ci ha raccontato a che cosa va incontro, a pagare 60.000 euro solo di quantificazione degli oneri da parcheggio aggiuntivo di flusso di traffico, che è una maniera fantastica per dare oneri aggiuntivi a chi vuole aprire una piccola impresa. E continuiamo oggi, come del resto fa il Sole 24 Ore da qualche giorno a questa parte, in questa campagna che trovate tutte le mattine nel fascicolo Imprese e Territori, con lettere e testimonianze in Dillo al Sole 24 Ore. Quindi ci prendiamo la briga di dare voce a chi tenta questa opera disperata di dare lavoro e creare impresa. Abbiamo come prima testimonianza di questa mattina quella di Sergio Maiocco, che è un dirigente d'azienda. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in quale città opera? Noi operiamo in Torino. Siamo torinesi, operiamo nella regione Piemonte, nella Piemonte Valle d'Aosta e Liguria, e siamo impegnati nella sanità. E lei è un amministratore delegato di un'impresa, anzi di due aziende, che hanno un socio unico tedesco, quindi stiamo parlando anche, per così dire, di una cattiva figura che facciamo rispetto a capitali che vengono dall'estero in Italia. Lo dica me. Ecco, allora, in questo caso, sanità pubblica, di che si tratta? Ma si tratta di un discorso molto semplice. Noi nell'anno 2004 abbiamo subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di Torino, e questo accertamento è terminato il 29 marzo del 2007. Diciamo che questo processo verbale di constatazione è stato notificato a noi il 28 giugno del 2007, l'avviso di accertamento il 10 giugno del 2008, e con lo stesso l'azienda veniva accusata di aver omesso di dichiarare i IRES ricavi per circa 1.044.000 euro, minori costi IRES e IRA per 242.000 euro. E quindi 1.300.000 euro, mica poca roba. Mi hanno detto che siete dei bei signori evasori. Sì, ha detto, cioè, questa è una delle aziende che da più di 30 anni a questa parte ritengo possa essere considerata una dei migliori contribuenti a livello non solo torinese ma regionale, se non addirittura nazionale. Mi sia permessa questa premessa. Allora, al di là di questo, siamo evasori perché mai partecipando a delle gare ospedaliere, questi signori hanno detto turbacchioni, voi a un certo punto avete un margine di contribuzione che in questi casi non si rileva tale. Quindi, secondo noi, voi avete evaso il fisco. Perché? Quindi, perché sia chiaro a casa, questa operazione sulla quale l'Agenzia delle Entrate vi ha accusato di oltre 1.300.000 di evasione è stata fatta con un criterio totalmente induttivo, cioè l'apparato tributario, sulla base di un calcolo che si è fatto lui puramente matematico del margine teorico di questa impresa, gli ha detto tu sei un evasore. È così, Maiocco? Certo, è proprio così, perfetto. Quindi questo perché l'Agenzia delle Entrate utilizza questo sistema che secondo me personalmente è primitivo, cioè uno per verificare se i ricavi dichiarati corrispondono a quelli che loro si attendono, dico bene che loro si attendono perché a una mia precisa domanda la risposta degli altri vabbè, e a quel punto è iniziato, per così dire, il contenzioso tributario tra voi e l'amministrazione. Che tappe ha avuto e a che punto è arrivato? Allora, il contenzioso tributario in pratica ha visto che noi ci siamo visti arrivare, diciamo così, una richiesta di accertamento risultante pari a 1.336.000. Abbiamo posto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino. La sentenza del 1 luglio 2009 accoglie il nostro ricorso per la maggior parte dei ricavi, per una parte delle contestazioni sui costi. La parte più corposa ovviamente è quella relativa ai ricavi, e a questo punto la Commissione riconosce quanto dall'azienda ribadito, cioè che il calcolo utilizzato dagli accertatori non è corretto, perché utilizzando l'azienda ricarichi diversi, la loro formula verrà sempre dei maggiori ricavi, quindi cosa che non accadrebbe in caso di ricarichi costanti. E quindi avete avuto ragione, perché abbiamo avuto ragione. Anzi, in primo grado è stata anche condannata, udite, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di 8.000 euro per tesi di lite, cioè un caso assolutamente rarissimo. Caso che l'Agenzia delle Entrate in questo caso non ha ancora pagato. Si figuri se lo Stato è così sollecito. Mentre noi inoltre 50.314 euro l'abbiamo dovuto pagare con cartella di pagamento. È ovvio, vabbè, ma noi siamo sudditi, ma allora, mica pretende, lei vince contro lo Stato, mica pretende adesso che lo Stato paghi a se stesso. Ma allora, scusi, se la cosa è finita, perché questa storia? No, è mica finita. Lei, il 19 settembre di quest'anno, nel 2012, l'Agenzia delle Entrate, attraverso l'avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso in Cassazione contro tale sentenza. Quindi ci troviamo un attimino spezzato. Io solo l'altro ieri ho dovuto firmare una delega per un avvocato romano che si rappresenterà in Cassazione con questa assurdità. Quindi a questo punto l'Agenzia delle Entrate, diciamo così, è andata in Cassazione. Quindi pensi lei, cioè, dopo che ha perso il primo grado, ha perso il secondo, è stata condannata al pagamento di 8.000 euro per le spese di rete che non hanno ancora pagato, e questi sono andati effettivamente in Cassazione. Quindi per noi continua questo calvario che dura dal 2007. Di certo, se le cose andranno avanti così, ne risentiranno sicuramente i livelli di impiego, perché sicuramente il socio tedesco... Ma il socio tedesco, quando lei le spiega... Innanzitutto avrei voluto vedere la faccia del socio tedesco quando lei l'ha dovuto spiegare che era sospettato di aver condotto illecitamente i conti, certo, per 1.300.000. Il socio tedesco sarà stato sfiorato dall'idea di metterla su un razzo e spedirla su Marte. Però detto questo, che cosa dicono di una vicenda così surreale? Non ci capiscono nulla, ci capiscono poco, e dicono che per lo Stato questo si tratta di un grande business. Solamente questo qui è la prima considerazione, no? È molto difficile spiegare questo qui ai tedeschi, soprattutto in un contesto come quello attuale della sanità, dove per esempio nella regione Piemonte questa mattina l'ingegner Monferino, che abbiamo incontrato ieri, dichiarerà il fallimento tecnico della regione Piemonte. Il fallimento tecnico, aspetti un secondo che ci torniamo su questo, il fallimento tecnico, perché la qualità del collegamento già non era buona ma è molto degradata. Nel frattempo, se lei ha un po' di pazienza, torniamo da lei dopo, perché andiamo su una seconda storia, che è quella di Gianluca Cotumaccio. Gianluca Cotumaccio, in effetti, che ci ha mandato una lunga mail proprio dopo la storia del bar di Torino di ieri. Buongiorno Cotumaccio. Buongiorno Oscar. Allora, lei opera dove? A Pescara, nel settore, diciamo, progettazione e design, sì. Facciamo, ci occupiamo proprio della ristrutturazione e progettazione. Ieri, ascoltando lo sventurato da Torino, ho scritto. Ecco, vediamo un po', cioè, scritto che cosa? Perché, perché lo sventurato, lei dice poi in definitiva, è sventurato sì, ma è mica un'eccezione. No, perché non è l'eccezione, perché qui a Pescara, dove opero, noi operando in Abruzzo, abbiamo parecchie normative, perché i comuni si fanno le normative a proprio, io li chiamo, a proprio immagine e somiglianza degli enti, ossia il comune adotta delle autorizzazioni, dato che il comune deve per forza adoperare la scia. Però il comune di Pescara, invece di adoperare la scia, ha iniziato ad adoperare anche la DIA per quanto riguarda la parte sanitaria. Quindi... Abbia pazienza, per i non tecnici, la scia, per non sembrare il partito dei seguaci di Ali, cioè gli sciiti iraniani, non stiamo parlando di filoni dell'Islam. La scia e la DIA, che non è questa la direzione antimafia, cosa sono la scia e la DIA? Allora, la scia e la DIA sono procedimenti edilizi per, diciamo, per far sì che un locale o un esercente possa aprire. La scia, diciamo, che va in silenzio e assenso, quindi il progettista presenta le carte, dal giorno successivo alla presentazione può aprire. La DIA? Invece, Invece la DIA ha un termine di 30 giorni entro i quali il comune può fare un diniego. Ora, dato che il governo Monti con la spending review ha adottato questa velocizzazione tra virgolette, i comuni hanno interpretato a loro immagine e somiglianza questa spending review. Cioè, per essere chiari, non hanno affatto in moltissimi casi seguito la via della semplificazione. Perfetto. Spiegaci come a Pescara. Allora, a Pescara un esercente che vuole aprire un bar deve costituire la società, deve aprire e sperare che i requisiti igienico-sanitari siano nell'ambito del regolamento edilizio, ricostruire la legittimità e quindi vedere la consistenza edilizia del locale. Dopo aver fatto tutti questi adempimenti, deve comunicare alla SUAP, cioè lo sportello unico, le attività produttive, deve comunicare questo inizio lavori e comunicare pure fare la comunicazione alla AS. Alla AS oramai se ne deve occupare il comune, quindi il comune deve recepire i documenti della AS, portare questi documenti, inviare via telematicamente alla AS e farli ritornare dietro. Ora, questo iter, devo dire che i tecnici e il front office della SUAP a Pescara lavora bene, però ha dei tempi tecnici che va da 30 a 60 giorni. Il poverino che ha iniziato a fare l'attività ha affittato il locale, inizia a pagare gli affitti, c'è un termine di 30, 60, 90 giorni, perché tanto alla fine questi sono i tempi di queste risposte. Nel frattempo c'è tutta la parte della procedura dei lavori. Al termine di questo iter si va a fare proprio la parte della somministrazione, ossia il comune di Pescara fa come il comune di Roma, attua un punteggio. Cioè, per aprire l'attività tu devi avere un tot di punteggio. Questo punteggio va in DIA, quindi fa perdere ulteriormente altri 30 o 60 giorni, oltre le spese tecniche che ci vogliono commercialisti, architetti, designer del settore proprio che facciano questo, fa sì che l'esercente prima di 150, 180 giorni non possa aprire il locale. Ora, oltre ad aver speso bolli e bollettini, il Comune di Pescara si è inventato un'altra cosa che ieri mi sono scordato a mandarti via email, ossia i locali non agibili, che non hanno l'agibilità e che fanno parte prima della normativa del 1939, non sono tenuti ad avere agibilità. Il Comune di Pescara, a interpretazione tutta sua, ha fatto sì che si fa un bollettino dove c'è scritto sanzione pecuniaria di agibilità, si pagano la bellezza di 464 euro, che non si sana. Ora il problema è che questa legge, dato che siamo andati pure con degli avvocati, una volta che si impugna questo conto corrente pagato dal proprietario, può essere risarcito, perché è una legge incostituzionale, perché la legge non prevedeva agibilità. Ora, noi dobbiamo andare con la schiera, io progettista e designer, il mio geometra, il mio avvocato, andare davanti a questo scienziato che si è inventata questa legge, portare il bollettino e dire: guarda, tu ci hai fatto pagare una cosa che è incostituzionale, perché non la prevedeva la legge prima del 1939, la legge sanitaria. Cioè, quindi stiamo parlando di una cosa che proprio non esisteva a quel tempo. Ora, questa è una. Se deve aprire un povero fioraio, mi è capitato ultimamente una pratica che deve aprire un fioraio, deve cambiare solo società, solo da società X e passare a società Y, che è la stessa società, non ha l'agibilità, questo poverino, prima di riaprire l'attività, abbiamo fatto il conto, circa 140-150 giorni. E gli hanno detto alla banca, che la banca non si interessa, giustamente dice: sono cavoli vostri, se voi non fatturate, non aprite, non fate. Andiamo in comune, ha detto, il comune sta pure iniziando a far dimettere gli assessori in comune. Quindi, per farvela a breve, questo povero fioraio adesso non sa che fare e che prescipendere. Dove sbattere la testa? Perché pur dovendo semplicemente cambiare la società, ne passeranno 6 mesi e la banca a quel punto vuole i soldi. Ma è vero che nel punteggio, che a un certo punto si è capito per poter aprire il locale di ristorazione, punteggio che in teoria verrà redatto dai commercialisti, ci sono per ottenere la graduatoria anche la percentuale di vini regionali offerti e il vincolo alla cucina territoriale? Allora, ve lo leggo proprio perché è da ridere, perché ce l'ho qui. Allora, per quanto riguarda il punteggio, ci vogliono almeno dice la legge, presenza del menù dei vini almeno due tipologie di vini DOC regionali, presenza di impegno nel menù di ricette regionali pari almeno al 20% degli alimenti offerti. Area wireless, vabbè, le famose documentazioni che diceva il collega ieri di Torino. E poi oltretutto devi avere, cioè in un bar di 40 metri quadrati probabilmente dovresti avere pure uno steward alla porta che ti faccia l'accoglienza. Allora, no, io mi permetto di ridere perché noi nella realtà dei fatti ci siamo abituati a considerare legittimo, ripeto, che per aprire un bar di 40 metri quadrati ci prescriva, lo Stato ci prescriva la quantità e il mix di bevande, da dove vengono e la percentuale del menù. Lo steward è all'ingresso. Ma che cazzo ne sa lo Stato di queste robe qua? Ma perché dobbiamo accettare l'idea di ficcarci per mesi e mesi a pagare robe con la banca che ci strangola nel frattempo, e nel frattempo l'esercizio commerciale non può essere aperto, e accettiamo pure queste robe? Vi rendete conto? Lo Stato va, mi dispiace, insieme ai partiti che ne hanno innervato e radicato la capacità rapinatrice, va rottamato. Ma lui va rottamato. E chi mi risponde? Lo Stato siamo noi? Beh, vuol dire che ne è parte, che ne ha un utile. E allora mi dispiace, va rottamato pure lui. Questo verbo mi dà molto fastidio, a dire la verità. Però ogni tanto vi cito Thomas Jefferson. L'idea che ci si debba mettere in fila per mesi e mesi accettando queste malversazioni, che sono figlie di una lunare cultura burocratica per giustificare pezzi di uffici pubblici diversi, e nel frattempo la banca ti strangola e ti chiede di pagare 1.300.000 come nell'impresa precedente, facendosi due calcoletti, perde in primo e secondo grado e continua a seguitarti in Cassazione, naturalmente dicendo di essere nel pubblico e se nel contenzioso, questo ti andrà a detrimento nelle gare. Questo è uno Stato ladro da rottamare. Prima di leggervi un paio di altre lettere, ricordate che con Sergio Maiocco, l'amministratore delegato di un'impresa che opera nel sanitario di soci tedeschi e che ci ha raccontato l'odissea di uno Stato che gli imputa di essere evasore per 1.300.000, perde in primo grado, secondo grado, ma niente, vi picchia in Cassazione dicendo tanto questo vi andrà anche a detrimento, visto che voi lavorate, siete così pazzi da voler lavorare con il pubblico. Del resto in sanità così bisogna fare. Chiedo a Maiocco, ci stava dicendo che Monferino, che abbiamo più volte sentito, il manager privato chiamato in Regione Piemonte alla testa della sanità per riorganizzare e risparmiare, si accinge a dire che cosa? Senza dire che la regione è tecnicamente fallita, che i conti della regione Piemonte non sono i suoi, che non godono una buona salute, lo sanno anche i sassi, ma in questo caso hanno scoperto un buco della sanità che supera i 900 milioni a fronte di un debito complessivo che avrebbe raggiunto i 10 miliardi, quindi lo dirà in una conferenza stampa stamattina. Questo l'abbiamo anche sentito questa mattina dal TG3, quindi regionale del Piemonte, eccetera. Ma mi permetta una piccola battuta a riguardo della rottamazione, non so se lei sicuramente si ricorda del discorso che Oliver Cromwell pronunciò, mi ricordo, nel 1653, sciogliendo il Parlamento inglese, no? Sì. Quindi oggi si parla di rottamazione. Al tempo Cromwell diceva: è tempo per me di fare qualcosa che avrei dovuto fare molto tempo fa, mettere fine alla vostra permanenza in questo ponzo che voi avete disonorato. Lo so, vede, lei però cita, io lo dico sempre, la pratica di ogni vizio. Lei cita però la prima parte della rivoluzione britannica, quella degli Ironsides, quello del New Model Army, che a me non piace molto perché finisce in una dittatura militare. Io preferisco quella del 1688, quando dopo alcuni decenni di controversie i borghesi, le classi intermedie, i corpi intermedi britannici capiscono che, visto che non è bastato tagliare la testa a un re perché credeva di voler troppe tasse, cambiano proprio la casa regnante, ne chiamano un'altra, e quella è la Glorious Revolution del 1688. E lo stesso principio di Oliver Cromwell, non in punta di spada ma in punta di ordinamenti. Ecco, noi spero che non dovremo arrivare alla spada, ma certo dobbiamo fare qualcosa di del tutto analogo, e diffidando di chi in politica ci dice che a questo punto siamo immoderati a volerlo. Noi siamo più moderati di loro, perché vogliamo tenere in piedi l'Italia, vogliamo tenere in piedi le imprese, vogliamo tenere in piedi il lavoro, vogliamo dare una dignità a chi è cacciato da tutto questo, cosa che loro non hanno fatto, non fanno. Quindi gli immoderati sono loro, e questo è il punto. E purtroppo hanno innervato uno Stato che si comporta come loro, come i peggiori dei partiti. Esperienze come queste che ci ha raccontato Maiocco, e per ridere ma mica tanto Davide Trasi da Pescara, sono questo. E adesso andiamo a un altro caso che spero vi farà inorridire, cari ascoltatori, perché stiamo parlando di come lo Stato si comporta nei confronti delle aree a più alta intensità di impresa mai colpite da un sisma nel nostro paese, in Europa, e per questo l'Europa infatti ha messo mano al portafoglio stanziando il massimo che abbia mai stanziato. Sto parlando naturalmente delle province emiliane colpite dal sisma, e ci ha scritto Davide Talassi, consulente del lavoro, e ci ha scritto Davide Talassi attirando la nostra attenzione su una cosa sulla quale dovrei urlare alzando a 1000 decibel il tono della voce, e invece abbasso apposta il tono in maniera tale che a casa o in macchina capiate che stiamo parlando di qualche cosa di indegno. Pensate che per effetto di un bel decreto legge, anzi di due norme successive, una del 10 ottobre e una del 16, non riesco a leggere la data a dirvi la verità, capita questo, che i datori di lavoro nei terreni, nelle aree, scusatemi, colpite dal sisma, i datori di lavoro che non hanno trattenuto e versato le ritenute dei dipendenti, e che non hanno date quindi agli stessi lavoratori direttamente in busta paga, dovranno loro, i datori di lavoro, le imprese, loro fare da banca. Dovranno loro anticipare il versamento di tutte le ritenute entro il 16 dicembre di quest'anno, e trattenendo al dipendente fino a un quinto dello stipendio. Cioè, ripeto, non so se vi è chiaro, chi confidando che si sarebbe fatto come per esempio all'Aquila, dopo 3 anni di sospensione all'Aquila è stato chiesto ai terremotati di versare il 40% di quanto dovevano in 120 rate, cioè in 10 anni, qui invece lo Stato ha deciso che, siccome sono laboriosi, come ha detto il capo della protezione civile Gabrielli 2 giorni fa, gli emiliani sì, mica come gli abruzzesi, infatti gli emiliani, alle imprese emiliane, si chiede di fare banca e di anticipare loro le cose subito, capite, subito. Questa è una roba nella quale bisognerebbe fare una, non una marcia su Roma, bisognerebbe fare uno sfascio su Roma, su chi ha avuto queste belle idee. Adesso, siccome naturalmente può essere che io non l'abbia capito bene, e io spero di non avere capito bene, ringrazio Davide Talassi che si è fatto vivo con noi e gli passo la parola. Come davvero funziona questa roba e come mai? Buongiorno, sì, il decreto è quello che è entrato in vigore, è stato pubblicato il 10 ottobre, il numero 174, ed è un decreto che ci tratta diversamente da tutti gli altri italiani. E questo qui che mi fa inorridire, perché dico, ma siamo emiliani e siamo all'interno dell'Emilia, come mai non veniamo trattati come gli abruzzesi o altri, vedi Belice, insomma altri terremotati? Anche noi abbiamo avuto gli stessi danni. Questo decreto qui non fa altro che dare un termine alla sospensione dei contributi e delle ritenute fiscali, dicendo che termina tutto il 30 di novembre, quindi non c'è nessuna protrazione, come era stato purtroppo. Loro sono andati di mese in mese, di 3 mesi in 3 mesi, è durata da maggio a novembre e adesso fine. Esatto, sì, c'è un primo decreto del primo giugno che mi dice i termini sono sospesi sia per gli adempimenti che per i versamenti, sono sospesi fino al 30 di settembre. Questo decreto qua, che era del Ministero dell'Economia e Finanze, poi è stato confermato da un decreto legge del 6 giugno che mi dice, mi dà le specifiche effettivamente di come trattenere le ritenute, però lo fa in modo ambiguo, cioè lascia una dubbia interpretazione per quanto riguarda l'operato dei sostituti d'imposta, cioè dei datori di lavoro. Non si capisce bene come effettivamente i datori di lavoro, non è chiaro su come i datori di lavoro debbano operare nei confronti dei dipendenti che hanno sede nel cratere del sisma. Mentre è chiaro per quanto riguarda gli imprenditori autonomi, dove dice che la sospensione si protrae fino al 30 di settembre e successivamente viene poi prorogata fino al 30 di novembre, non è chiaro per i dipendenti. Questo cosa significa? Significa che i lavoratori autonomi non hanno alcuna certezza se per loro vale quello che vale per le imprese sostituto d'imposta, che devono pagare, devono pagare entro il 16 dicembre tutto quello che devono in termini di trattenute e che non avevano versato allo Stato, lo devono pagare tutto e subito. Per i lavoratori autonomi invece non è chiaro. No, non è per i lavoratori autonomi, è per i datori di lavoro che non è chiaro come si debbano comportare per le ritenute fiscali contributive. Per i contributivi l'hanno specificato. Perfetto. L'Agenzia delle Entrate però non si è mai espressa per quanto riguarda le ritenute fiscali, l'IRPEF che viene trattenuto in busta paga ai dipendenti. Sì. Quindi c'è stato un gran caos, tant'è vero che l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, che è un comunicato stampa, non ha ben poco valore, esce dicendo che la sospensione dei termini per quanto riguarda le ritenute fiscali dei dipendenti vale dal 20 maggio all'8 giugno. L'8 giugno che è la data di entrata in vigore del decreto 74, e creando una bella contraddizione, perché non si capisce come mai un dipendente che è sempre stato considerato una parte da tutelare maggiormente rispetto all'imprenditore debba avere la sospensione solo per il periodo 20 maggio 8 giugno, quando il lavoratore autonomo e l'imprenditore ha la sospensione dal 20 maggio al 30 di novembre. Quindi c'è qualcosa che non va, cioè è discriminatorio nei confronti dei dipendenti. Ma certo che è discriminatorio. E non penso che questo qui fosse l'intenzione del legislatore. È che una lei norma... pensa che non sia l'intenzione, però è questo che ha scritto il legislatore. L'ha scritto male, l'ha scritto molto male. L'ha scritto molto male. Sì. E quindi noi anche come consulenti del lavoro abbiamo preso una posizione a dire no, la sospensione deve essere anche per il dipendente, e quindi abbiamo sospeso le ritenute sia fiscali che contributive. Le abbiamo sospese erogandole al dipendente, cioè in busta paga sono state maggiorate delle ritenute IRPEF ed INPS. Il dipendente ha portato a casa più soldi. Arriviamo al decreto 174 del 10 ottobre che ci dice: bene, cari signori, finisce la sospensione dei termini, cioè termina la sospensione dei versamenti, e dal 16 dicembre ci dovete versare tutto. Tutto. Quindi l'imprenditore, il datore di lavoro deve, oltre a magari IVA e altre sue imposte che ha sospeso, che dovrà versare il 16 dicembre, oltre queste deve riversare tutte le ritenute che ha dato ai dipendenti. Però il problema è questo qua, non li può trattenere tutte al dipendente. Di botto, come ovvio, perché sennò il povero dipendente si trova azzerato nella busta paga. C'è da precisare però che il povero dipendente hanno disciplinato per quanto riguarda l'IRPEF e hanno detto praticamente: tu caro datore di lavoro, mi riversi tutte le ritenute IRPEF e ne trattieni un quinto al dipendente fino ad esaurimento, ma non hanno disciplinato per quanto riguarda l'INPS, i contributi. Chiarissimo. Diciamo che il legislatore soffre di qualche scompenso etilico e quindi dimentica ogni passaggio. E certo, è chiaro che non disciplinando questo il datore di lavoro non sa come comportarsi, visto che sa. Facciamo le buste a zero. No, perché su lì, cioè per essere chiari, la norma ha dato un termine al datore di lavoro che deve versare tutto allo Stato per, diciamo così, rivalersi, visto che andava di più in tasca al dipendente. Al dipendente può andare non oltre un quinto delle quote eccedenti passate, può prendere il problema che riguarda l'IRPEF. Sull'INPS lo Stato si è dimenticato di dirlo. Naturalmente per questo secondo effetto si potrebbe ottenere comunque l'effetto di rivalersi troppo sul dipendente. Ma qui siamo ancora nella consueta selva di adempimenti tecnici essenziali per poter essere considerati in regola, che come si vede sono impossibili perché lo Stato non ti mette in condizione di capirci un cavolo. Il principio di fondo, mi perdoni, è che sono due. Primo, dire ai datori di lavoro che improvvisamente fine della moratoria, adesso mi dovete tutto, mi dovete entro il 16 dicembre tutte le ritenute fiscali non trattenute sulle retribuzioni. Primo, me le date. Secondo, visto che almeno per la parte IRPEF, per la parte INPS lo sono dimenticate, non potrete ovviamente trattenere tutto di botto sui dipendenti, ci mancherebbe, quindi potrete trattenere da ogni busta paga solo le quote non eccedenti un quinto dello stipendio mensile. Nel frattempo non è che a voi, almeno su questo, vi do una moratoria, una rateizzazione, cari datori di lavoro, me lo date comunque. Dice: come faccio a dartelo comunque? Mettetevi d'accordo con una banca, ma me lo date comunque. Alla banca, naturalmente, caro datore di lavoro, tu pagherai anche gli interessi del fatto che sei andato in zona sismica. Ho capito bene? Sì, ha capito bene. Poi consentendo poi che la banca te le dia, perché non è mica così semplice al giorno d'oggi che una banca ti eroghi. E questo qui poi, insomma, è una cosa che lascia sconcertati, perché non è possibile. Negli altri terremoti si sono visti, vedi ultimo quello dell'Aquila, è stato fatto uno sconto del 60% delle imposte dovute e è stato dato una dilazione di pagamento in 120 rate, in 10 anni. Insomma, mi sembra che ci sia una discrepanza. Allora, torno di Zinzen, vediamo se rapidissimamente riusciamo a dare la parola a due ascoltatori. Salvo da Milano, salvo, prego. Pronto, eccoci qua. Pronto, salve Oscar, salve, sì. Buongiorno. Sì, una cosa veloce, rapida, una amarezza che ho avuto negli ultimi anni. Io vivevo all'estero e per tanti anni ho vissuto all'estero, occupandomi di un lavoro particolare che mi portava a vivere in posti piuttosto isolati e tropicali, ho deciso... Insomma, c'è di peggio. Ah sì, sicuramente, sicuramente, ma dopo un po' una piccola isola tropicale ti sta stretta, nonostante il lavoro era molto interessante. Ho deciso di rientrare in Italia, ho cambiato totalmente mestiere perché per motivi personali volevo stare vicino alla famiglia e ho iniziato a imparare l'arte di fare il gelataio. Ho lavorato in una gelateria. Gelatiere, dai, gelataio è sempre una cosa. Gelatiere, allora, hai imparato. Gelatiere è troppo ancora, non sono ancora pronto. Ecco, è troppo elevato come livello di artefice. E sei riuscito ad aprirla? No, ho deciso di andarmene, di aprire all'estero, perché sono 2 anni che lavoro presso una gelateria molto, molto quotata nell'interland milanese. Tra l'altro di una mia amica che mi ha quindi dato tutte le informazioni necessarie, ho vissuto con lei 2 anni di esperienza, ho lavorato e dopo quello che ho visto, quello che ho saputo informandomi su ciò che serve, parlo a caratteri generali, non voglio entrare nello specifico, penso che mio malgrado andrò a aprire all'estero perché qui è impossibile. Ti stringono troppo, ci sono troppe cose assurde, tipo, non so, il registratore di cassa dopo un numero fisso di battute, di chiusure, io sono obbligato a cambiarlo. Noi abbiamo dovuto cambiare il registratore di cassa nuovissimo, perfetto, perché la legge dice che dopo un tot di numero di battute lo devi cambiare a spese tue, arrivato l'ufficiale, tutto quanto. Io... Magari sarà anche giusto, però... No, ma che magari sarà anche giusto, Salvo? Cioè, allora, intendiamoci. Ma di che? Ma su, ma no, ma non è giusto, è ovvio che non è giusto. Ci sarà dietro un accordo tra chi fa questa norma, chi li vende, perché attenzione, mica solo il pubblico, è anche il privato. Il privato si ricava nelle nicchie di inefficienza, delle nicchie di mercato tutelate. E così, purtroppo, è lo Stato inefficiente che rende la società corrotta, e la società si fa corrompere e a quel punto paga. E questa è la grande catena del ruba-ruba di questo Stato che poi... Si indigna quando noi alziamo la voce, capite? Si indignano loro, questo è il bello. Va bene, appuntamento a lunedì e grazie del buon cuore con cui sopportate ogni tanto le mie risatacce, la mia levata. Però voi capite, agli emiliani trattarli così dopo il terremoto, che indignità. Perché non era Gianni Letta, ovviamente, abruzzese, capito?